Questa fossa dove stai? Larga poche dita, è il più piccolo conto che hai pagato in vita. È il più piccolo conto che hai pagato in vita. A volume giusto, né largo né fondo, è la parte che ti tocca del latifondo. È la parte che ti tocca del latifondo. Non è una fossa grande, è giusta e precisa, è la terra che volevi veder divisa. È la terra che volevi veder divisa. È una fossa grande per un piccolo morto, ma hai più spazio attorno di quando eri al mondo. Hai più spazio attorno di quando eri al mondo. È una fossa grande per un morto da niente, ma qui più che nel mondo stai comodamente. Ma qui più che nel mondo stai comodamente. È una fossa grande, la tua carne è poca, ma la terra donata non si guarda in bocca. Ma la terra donata non si guarda in bocca. Che volevi veder divisa, ma hai più spazio attorno di quando era il mondo, ma qui più che nel mondo stai comodamente, ma la terra donata non si guardi in bocca, ma la terra donata non si guardi in bocca.